Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco, non ne posso più, è il ritornello di questi giorni e anche chi non si lamenta avverte una certa difficoltà ad arrivare a sera. La routine diventa pesante, molti di noi si sentono affaticati già dalle prime ore del mattino. C'è chi si affatica non a fare, ma solo all'idea di dover fare. E qui mi fermo perché vorrei sapere da voi qual è la cosa che al solo pensiero vi stanca. Le scale, i lavori domestici, la spesa, andare al lavoro, la seduta di allenamento, il parrucchiere, le valigie. 800 24 00 24 e ditemi da 0 a 10 quanto vi sentite stanchi. Buongiorno al dottor Franco Confalonieri, medico sportivo e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese, che ha avuto la forza di arrivare fino a qui, da 0 a 10. Stamattina mi sono svegliato e ho detto, ah, come sono stanco, devo anche andare in radio. Vedi, tutto da stanchezza. No, da 0 a 10 è importante che ci rispondano, anche perché magari è la nostra sensazione che adesso la gente si senta più stanca, invece sono tutti tonici, allegri, contenti, si va verso un periodo in cui il clima è migliore, magari anche i tempi di lavoro si riducono un po', però l'idea che si ha è che ci sia questa grande stanchezza, che in parte è legata ovviamente al clima, perché il clima caldo o umido che c'è un po' in tutta Italia di per sé riduce la capacità di attività, la capacità di concentrazione, la capacità di lavoro, e in parte è probabilmente legato anche al fatto che si arriva al termine di un periodo lungo comunque di lavoro e di impegni. E in questa fase è importante capire quanto si è stanchi, perché si è stanchi, e come combattere questa stanchezza, magari anche con scelte di vita semplici ma efficaci, quindi riorganizzare un po' la propria giornata o gli spazi liberi della propria giornata, o, per venire al tema che tratto normalmente in modo più specifico, riorganizzare lo spazio che si dedica a se stessi, all'attività fisica, al benessere personale, alla propria corporeità o quant'altro. Cioè, cosa facciamo d'estate diversamente da quello che facciamo normalmente durante l'anno e perché? Questo è il periodo dell'anno in cui le sedie hanno le braccia, sono tutte mie, mi scrive Angela al 349-238-6666. E dottor Confalonieri, se stare in piedi costa fatica, immaginiamo che cosa succede se ci viene l'idea di camminare o ancora di allenarci. Certo, difatti in questa fase probabilmente dovremmo ridurre in modo significativo il tempo dedicato all'allenamento. Magari inventarci tutta una serie di attività legate all'acqua, perché in questo tempo comunque l'acqua ha un forte potere attrattivo. Sì. Cioè l'idea di andare in acqua, di andare al fresco e di vivere queste sensazioni di tipo tonificante è importante. Quindi sicuramente un primo consiglio può essere proprio quello: scegliete attività in acqua, se sapete nuotare il nuoto, se no la ginnastica in acqua, se no camminare in acqua, però cercate l'acqua, ci sono sempre più offerte legate all'acqua e questo comunque vi farà bene. E invece rispetto all'allenamento, l'idea potrebbe essere proprio, se vogliamo, un po' alternativa, un po' rivoluzionaria, ma proviamo a allenarci meno e allenarci in modo più intenso. L'idea dell'intensità, che fatica. Brava, l'idea dell'intensità teoricamente crea fatica, però è una sorta di botta, facciamolo meno, me lo levo subito, però lo facciamo in modo intenso, però ci crea uno stress positivo e poi magari dedichiamo più tempo al recupero, al massaggio rilassante, alla sauna, al bagno turco o anche un tempo passato in spogliatoio, sotto la doccia, rivestirci con la cremina giusta, con l'attenzione giusta verso di noi, un pochettino più lungo. Allenamento più breve, più intenso, magari intervallato, così comunque ci porta a perdere grasso e quant'altro, e però diverso dall'allenamento lungo lento, ottimale per l'apparato cardiovascolare, ottimale per il dimagramento, che è stato un po' il leitmotiv durante tutto l'anno. 800 24 00 24, se volete condividere questa proposta che il dottor Confalonieri ha definito un po' rivoluzionario, un po' fuori, quindi un allenamento molto intenso, breve per poi dedicarci ad attività dai tempi più lunghi e più piacevoli. Ma noi vogliamo anche parlare di stanchezza con chi abitualmente non fa sport e ha solo l'idea di percorrere quella famosa distanza, scendere dall'autobus una fermata prima. Uno dice: ma chi me lo fa fare? Io sto qua, tanto cambierà poi qualcosa. 800 24 0024 349 238 6666. Dottore, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di quantificare la loro stanchezza da 0 a 10. Quanto vi sentite stanchi? È vero che però la stanchezza non si misura e per questo motivo è spesso sottovalutata, ma ha dei segnali che parlano da soli, tanto che ci fanno dire sono stanco, segnali che coinvolgono la testa e coinvolgono, intesa come mente, il corpo. Dottore. Ma io direi di essere attenti fondamentalmente a tre segnali che sono molto conosciuti nel mondo dello sport e nel mondo dell'allenamento, perché sono i segnali di sovraffaticamento e di sovrallenamento, ma che sono anche gli stessi segnali che ha ciascuno di noi in un momento in cui sta andando un po' in overtraining, cioè sta andando oltre. Il primo, diminuisce in modo significativo la qualità del sonno. E attenzione, non è che facciamo tanto fatica ad addormentarci, probabilmente siamo così stanchi, così prostrati, che abbiamo proprio bisogno, quindi ci addormentiamo anche con una certa facilità, però diventa molto più frequente il risveglio notturno, il risveglio precoce, e questi risvegli notturni si accompagnano anche a una grande ansia, preoccupazione o semplicemente fatica rispetto a quello che ci aspetta il giorno dopo. Questo è un primo segnale significativo. Secondo segnale, diminuisce l'appetito. È vero che c'è un luogo comune per cui d'estate col caldo si tende ad avere meno appetito, a mangiare meno. Non dovrebbe essere proprio così, cioè dovremmo avere un'uguale quantità di appetito, un uguale desiderio rispetto alla necessità di mangiare, magari orientandoci su cibi diversi. Non sceglieremo il risotto alla salsiccia o la cassola, sceglieremo l'insalatina o il carpaccio di tonno piuttosto che di pesce, però l'appetito deve restare, deve rimanere. Una mancanza di appetito è un altro segnale importante di stanchezza. Terzo, una maggiore facilità ad arrabbiarci, a discutere, a litigare o semplicemente ad evitare il confronto con chi frequentiamo nel mondo del lavoro o in famiglia. Questo è un segnale molto significativo di stanchezza, cioè questa è una fase in cui tanti di noi o litigano, addirittura preferiscono nemmeno discutere, non affrontano più i problemi, si rifugiano in questa sono stanco, sono stufo, non ne posso più e via. E quindi questi sono i tre segnali: il sonno, l'appetito e un peggioramento dei rapporti interpersonali, familiari e lavorativi. Abbiamo Leonardo, ci chiama da Firenze. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a lei. Salve a tutti. Niente, io volevo sapere una cosa, perché ho, diciamo, la cosa opposta. Io la sera sono stanco come tutti, andando a lavorare tutto il giorno, guido parecchio. A me fare sport la sera mi fa andare via la stanchezza. Io riesco a cenare la sera verso le 8, verso le 9 e mezzo mi faccio un'oretta di bicicletta e mi passa la stanchezza e vado a letto meglio e dormo. E dorme tutto di filato. Questa è la ricetta di Leonardo. Grazie Leonardo, e invito anche gli ascoltatori a darci la loro ricetta anti-stanchezza. Molto interessante questa telefonata, perché anticipa un ragionamento che avrei voluto fare più avanti. Voi sapete che tanto spesso, anche da questa trasmissione, vi abbiamo invitato a fare attività fisica al mattino presto, anticipare il risveglio e utilizzare queste ore per fare l'attività e poi avere la giornata davanti. L'estate si accompagna anche a giornate molto più lunghe e a questa luce che comunque dura fino alle 8:30, alle 9 e via dicendo. Ecco, potrebbe essere davvero una scelta intelligente magari concedersi un po' più di riposo al mattino, ma sfruttando proprio i tempi diversi della luce che dovrebbero essere la nostra guida, magari anticipare la cena come fa il nostro amico alle 7:00, 7:30 e poi dedicare uno spazio all'attività fisica in questo caso non particolarmente intensa, nel dopo cena. Questo è un suggerimento davvero importante. Cioè, 10 lode. Sfruttiamo i tempi della luce. Adesso abbiamo luce fino a tardi, riempiamo anche questi spazi. E a proposito di spazi, se provassimo a interpretare la stanchezza come un invito proprio del nostro corpo, della nostra mente a rallentare, a fare un po' di pulizia, a non sprecare le forze, nell'ottica proprio di destinare le energie a qualcosa che ci fa bene e ci aiuta a stare bene. Prendiamo spunto da una frase di Einstein che in questo caso è illuminante. Tre sono le regole principali del mondo del lavoro. Dal disordine e dalla confusione, cercate di tirare fuori la semplicità. Nei contrasti, ricercate l'ironia. E infine, ricordate che l'opportunità risiede proprio nel bel mezzo delle difficoltà. Albert Einstein. In linea con noi la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale presso il Dipartimento di Neuroscienza alla clinica della Casa di Cura Villa San Benedetto Menni, in provincia vicino a Como. Dottoressa Torti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dal disordine, io prenderei proprio spunto dalla frase che abbiamo appena sentito e quindi partirei dal disordine e dalla confusione, proviamo a tirare fuori la semplicità. Esatto, parola chiave direi di tutto, no? Allora a questo punto io aggancerei una citazione a quella di Einstein di Marco Aurelio, che era questo imperatore romano filosofo, il cui motto da valido imperatore che era appunto accontentati di fare un passo avanti anche piccolo. Allora la citazione è la seguente e dice: non turbarti e cerca di essere semplice. Qualcuno cade in errore, è contro se stesso che pecca. Ti è capitato qualcosa? Bene, questa cosa dall'insieme delle cose universali fin dall'inizio dei tempi è stata assegnata a te come intessuta nella trama della tua esistenza. E poi la vita è breve, bisogna approfittare del presente agendo secondo ragione e giustizia. Allora, è una citazione piuttosto apparentemente complessa, in realtà tre sono i concetti principali. Sì. Il primo è che la semplicità richiede uno sforzo, un minimo sforzo di sintesi, proprio perché dobbiamo comunque non perdere di vista l'obiettivo. Il secondo riguarda invece gli errori, che sono comunque parte fondamentale della nostra vita. Noi, Nicoletta, pensiamo, no, di poterne fare a meno, di doverli per forza evitare, però in realtà li possiamo controllare in parte. Siamo umani, dobbiamo cercare anche di accettare il rischio, e questo perché è comunque intrinseco in ogni azione, perché se noi appunto ci blocchiamo di fronte alla possibilità di fare errori, in realtà certo, finiamo per procrastinare cose appunto all'infinito e riusciamo, risultiamo. Quindi non dobbiamo stancarci di sbagliare, a proposito di stanchezza. Più che altro bloccarci proprio nel nostro pensiero, no? Di poter sbagliare o di poter fare, è il pensiero che ci blocca ogni tanto. Quindi bisogna saper accettare e poi modificare. Ma soprattutto fare che cosa? Accettare di poter fare degli errori, saperli leggere anche con ironia. Certo. E quindi qui torniamo appunto al nostro Einstein che diceva: nei contrasti ricercate l'ironia. E che cos'è l'ironia? Come dice Kierkegaard, possiamo dire che l'ironia è l'occhio sicuro che sa cogliere lo storto. Cioè in questo caso significa essere sicuri di sé, saper mantenere comunque una motivazione alta malgrado le difficoltà. Ecco, lei ha citato una parola molto, secondo me, che può dare uno spunto al dottor Confalonieri, che è motivazione. Mm-hmm. Dottor Confalonieri. Sì, direi che mantenere la motivazione in una fase di stanchezza come quella che accompagna spesso questo periodo è assolutamente importante. Io riprenderei proprio molto sinteticamente tre dei concetti che sono usciti da queste citazioni, da questi ragionamenti. Il primo, il concetto di un passo alla volta, che è un concetto che ci ha sempre accompagnato e che ci deve accompagnare sempre. Se abbiamo un obiettivo, non pretendiamo di raggiungerlo subito, ma accontentiamoci di verificare il fatto che si è fatto un passo in quella direzione. Troppo spesso ci sembra troppo poco un passo, invece un passo è fondamentale, con quell'idea di gradualità che tante volte abbiamo proposto ai nostri amici. Il secondo è il concetto di semplicità e di sintesi, soprattutto in una fase in cui c'è minore disponibilità fisica, minore disponibilità mentale al lavoro come all'allenamento, dobbiamo essere capaci di capire che cosa è fondamentale ed eventualmente limitarci a fare, in termini lavorativi e in termini di allenamento, quanto è fondamentale. E l'ironia, soprattutto nel mondo dello sport amatoriale, così come dello sport agonistico, è un ingrediente base, cioè la capacità di sapersi prendere in giro, rispetto al proprio aspetto fisico, rispetto al risultato, rispetto alla vittoria, alla sconfitta, rispetto alla piccola sfida, è un ingrediente fondamentale per chi sa fare sport in modo intelligente. Dottoressa Torti, tutti noi avvertiamo una certa difficoltà a portare avanti i nostri progetti e a raggiungere gli obiettivi. D'altronde è fisiologico, perché ci sentiamo, ma abbiamo un anno di lavoro sulle spalle. Ma questa potrebbe essere sempre una chiave che vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi a sfruttare un po' la situazione a nostro vantaggio, un'opportunità. Certamente sì, in questa fase dell'anno soprattutto è necessario disattivare un po' il pilota automatico, no? Che ci dice sempre di fare le stesse cose, quindi di pensarla anche nella stessa maniera. Dovremmo rompere un po' la routine e dandoci delle nuove priorità, facendo appunto un po' un ordine mentale e quindi anche un nuovo spazio. Possiamo anche dare dei consigli pratici, no? Quindi ritornando un po' al discorso dell'attività sportiva, fondamentale, come diceva anche il professore, bastano anche 20 minuti al giorno per 3 volte alla settimana, dimostrato, preferendo attività aerobica, camminare, correre, ovviamente anche il nuoto, per migliorare che cosa? Il tono dell'umore, ma anche aumentare la resistenza psicofisica. E il dottor Confalonieri oggi lancia questa proposta: fatela in modo molto, esatto, intenso e breve, per poi appunto dedicarsi a delle tecniche di rilassamento. Esatto, infatti poi per chi lo preferisce, tecniche di rilassamento possono essere, come suggeriva lui prima, semplicemente concentrarsi e mettersi una crema piuttosto che rilassarsi in una sauna, o altrimenti appunto dedicarsi a una tecnica di rilassamento anche un po' più strutturata e guidata. Certo. Il secondo punto è curare molto bene l'alimentazione. Anche qui sembra un cliché, ma in realtà è proprio dimostrato scientificamente, no? Che ridurre il consumo di zuccheri e grassi saturi di origine animale, favorire ovviamente l'assunzione di frutta, verdura, omega 3, che cosa fa questo tipo di dieta? Quindi una dieta piuttosto mediterranea, diciamo, ha proprio effetti protettivi direttamente sul sistema nervoso, e quindi che sono quelli coinvolti nel meccanismo dello stress e quindi della stanchezza. Il terzo passaggio è socializzare, quindi quale miglior periodo dell'anno per scambiare 2 chiacchiere sotto l'ombrellone piuttosto che uscire in un parco per una passeggiata. Sì, lei non inviti tanto le chiacchiere sotto l'ombrellone, perché poi uno è costretto sempre a stare sempre sulla battigia, perché sennò il vicino di ombrellone che ti fa 1000 domande e uno non riesce neanche a leggere una pagina di libro. Assolutamente, ma socializziamo, sempre nel rispetto dell'altro. Socializziamo sempre. E poi parlavamo di ironia, ma prendiamola, cioè, noi tendiamo in questo periodo a trascinarci, invece usiamo, sembra una frase fatta ma aiuta, perché le ricerche lo dimostrano, un po' di energia per sorridere, perché sennò si vedono tutte persone che si trascinano su. Assolutamente. Un po', pensa a Nicoletta, che appunto è dimostrato proprio che la mimica del sorriso è una strategia potentissima antistress, perché favorisce il rilascio di endorfine, che sono queste sostanze naturalmente prodotte dal cervello che ci fanno sentire bene, rilassati, e quindi aiutano anche a combattere il dolore e la stanchezza, oltre che poi aumentare l'ossigenazione, migliorare comunque la nostra capacità di adattarci, quindi con la variabilità cardiaca. Però appunto è proprio dimostrato, quindi sorridiamo un po' di più. Sorridiamo un po' di più. Insomma, dottoressa Torti, lei da 0 a 10 quanto si sente stanca? Ma ultimamente diciamo anche 7-8. 7-8, una buona via di mezzo. Esatto. Grazie. Ce la metteremo tutta. Grazie dottoressa Torti per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Facciamo un saltino a Torino. C'è Marco che ci aspetta all'800240024. Marco, buongiorno. Buongiorno. Da 0 a 10? 7,5. 7,5. Fisicamente 7,5. Mentalmente direi 4. Che bravo. Bravo, Marco, e come fa? Che magia. Non lo so, forse un po' anomalo, sebbene, come dire, io recepisca un po' di fatica fisicamente, mi ritrovo ad avere la mente molto più produttiva in questo periodo, e, anche perché per tipologia di lavoro capita spesso di dover lavorare fino a tardi in questo periodo, e mi rendo conto che man mano che si va verso fine giornata mentalmente riesco a essere più produttivo. emotivo, se così si può definire, sebbene chiaramente Certo. il fisico ogni tanto qualche cedimento dia poi segni di stanchezza, ecco. Grazie Marco. Intanto Marco ci ha suggerito stanchezza fisica, stanchezza mentale, quindi possiamo dare il voto generale, ma anche un voto alla nostra stanchezza fisica e a quella mentale, per vedere se avvertiamo in quale parte del nostro organismo l'avvertiamo di più, se a livello di testo, a livello di muscoli. E poi abbiamo visto in puntate precedenti che comunque cervello e muscoli si parlano e si condizionano. Essere e benessere. Magda, scusa, ma che hai lasciato i bambini soli in macchina? Scusami, Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch'io con voi a Roma? Scusa, Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? No, ma mi riposo un po', sto un po' sola. E poi voi state più larghi in macchina, eh? Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti un pessimo esempio ai bambini, che sanno benissimo che andiamo a compiere il nostro dovere di cittadini italiani. Ma poi spiegami una cosa. Di che te devi riposare? No, spiegamelo. Spiegamelo. No, di niente. Scusami. Scusa, Magda, dove stai andando? A spegnere lo scaldabagno. Ma come? Ma avevi detto di aver fatto tutto. Allora sei un po' bugiardella. Io vado giù dai bambini. Quando esci, chiudi con le mandate, va bene? Sbrigati che sono le 7:32. Non ce la faccio più. Non ce la faccio. E quando non ce la facciamo più, ci sentiamo giù, abbiamo bisogno di qualcosa che ci tonifichi, ci tiri un po' su. In natura ci sono erbe, piante a cui la scienza riconosce proprietà tonificante. Sono i tonico-adattogeni. Ci facciamo spiegare tutto dal dottor Luca Avoledo, naturopata. Dottore, bentornato e buongiorno. Buongiorno, sì Nicoletta, dici bene. Esistono delle piante che possono contrastare la stanchezza psicofisica e sostenere l'organismo nei momenti di cali energetici. Sono proprio le erbe dell'attività tonico adattogena, si dice. E cosa significa tonico è abbastanza intuibile, ma soprattutto ognuno di noi fa ogni giorno esperienza dell'assunzione di una sostanza tonica, che è il comune caffè. Grazie alla caffeina il caffè ci dà tono, ci dà la sveglia, un effetto temporaneo, anche se intenso, che ci aiuta a tirarci su. Ben più interessante però è la componente adattogena di alcuni rimedi. Cosa significa questa parola? I rimedi naturali adattogeni aumentano la resistenza dell'organismo alla fatica e ai vari fattori di stress, sia di carattere fisico che emotivo, grazie alla loro capacità di agire sulla sfera neuroendocrina, quindi sul sistema nervoso e sul sistema, sulla produzione di alcuni ormoni. Allora, dottore, vogliamo iniziare dal ginseng, il tonico per antonomasia, almeno quello più noto? Sì, è vero, il ginseng ormai è notissimo, la sua efficacia è quasi proverbiale, si trova in commercio nelle forme più disparate, compreso anche in alcune bevande simili al caffè ormai. Sì. Vero? Il dottor Confalonieri vuole entrare perché evidentemente lui lo beve. Sì, io faccio una segnalazione così di costume, nelle macchinette che abbiamo all'interno del nostro centro sportivo abbiamo inserito questo che teoricamente è caffè con ginseng, e incredibilmente è quello più richiesto dalla gente, quindi è nata questa sensibilità rispetto a questa tipologia di azione. E mi stupisce. È molto dolce, tra l'altro. Sì, non è neanche buono, se vogliamo, perché è molto dolce, però... E io sono una vittima di questa cosa, ho l'idea che mi faccia bene e lo beva. Allora, ma dottor Avoledo, ma funziona questa bene, specie di caffè al ginseng? Il caffè al ginseng? Non sappiamo. No. Qualche dubbio ce l'ho, esatto. Sono delle preparazioni che si vendono in erboristeria e in farmacia, degli estratti particolari sicuramente più efficaci titolati in principi attivi. D'altronde è un'erba utilizzata in medicina cinese da migliaia di anni, lì è considerata un rimedio universale, anche un afrodisiaco. È addirittura uno dei sì assolutamente è un rimedio che vale in tantissime circostanze. Per quello che riguarda la stanchezza è sicuramente uno dei rimedi a effetto più rapido, perfetto per risollevarsi velocemente dalle situazioni di stress psicofisico, ma c'è un anzi più di uno. Tra i rimedi tonico adattogeni è il più tonico di tutti, quindi ha un effetto simile al caffè, sì. E si arriva ben presto a una assuefazione, anche nel senso che se lo si prende per troppo tempo perde di efficacia. Ancora peggio il fatto che non è privo di effetti collaterali, quindi anche qui chi ne consuma tanti alla macchinetta, appunto quando diventano davvero tanti, qualche effetto si ha, e ci sono delle controindicazioni, delle reazioni desiderate, per esempio è sconsigliato in chi soffre di pressione alta, ipertensione arteriosa, e nell'uso prolungato può provocare proprio ipertensione, irritabilità, disturbi del sonno di cui si parlava, quindi massimo l'uso per, non tanto del caffè della macchinetta, ma delle preparazioni laboristiche per 4 o 6 settimane al massimo. Non di più. E se volessimo passare all'eleuterococco? L'eleuterococco è un altro rimedio interessantissimo, si chiama ginseng siberiano anche come secondo nome, ma non c'entra niente col ginseng a dispetto del nome, arriva dalla Siberia e qua il dottor Confalonieri forse sarà interessato, anzi sicuramente lo conoscerà, è stato sdoganato in Occidente dagli atleti russi alle Olimpiadi di Monaco del 72, si diceva che avessero preso l'eleuterococco per migliorare le performance, anche addirittura alcuni astronauti russi, la leggenda vuole che prendessero l'eleuterococco. È perfetto per la stanchezza fisica e mentale, quella difficile da recuperare, situazioni di esaurimento psicofisico. Lo consigliamo quindi ai nostri ascoltatori che praticano attività sportiva con una certa regolarità? Assolutamente sì, soprattutto però è utile in quei casi in cui la persona ha una risposta allo stress diminuita in occasione appunto di particolari eventi stressanti, quindi senz'altro nello sport, ma è il rimedio d'elezione per esempio per gli studenti che preparano gli esami scolastici, perché migliora anche le performance, la concentrazione, l'attenzione, è indicato negli stadi di surmenage psicofisico, per esempio. Ma che effetti negativi o che limiti presenta? Molto simili a quelli del ginseng di prima, però è un po' più tollerato, quindi l'uso può protrarsi anche per un paio di mesi, anche tre, attenzione, e può per esempio la somministrazione serale provocare insonnia, si risolve prendendolo solo la mattina. Senta dottore, ma se la stanchezza pesa anche un po' invece sull'umore, il dottor Confalonieri in apertura ha detto siamo uno dei segnali classici della stanchezza è quando siamo particolarmente irritabili, discutiamo più del necessario e quindi insomma l'umore diventa un po' ballerino. Abbiamo un rimedio? Il dottor Confalonieri ha sicuramente ragione, in questo caso c'è un rimedio ancora più indicato tra i tonici adattogeni, è la rodiola. Rodiola, altra erba orientale, arriva dalla Russia e dall'Asia. Moltissimi studi scientifici hanno sancito l'attività adattogena della radice di rodiola, anche qui utile per contro la stanchezza, le performance, migliora le performance mentali, ma anche nell'ansia, appunto per ricollegarci a quello che dicevate, e nei disturbi dell'umore, perché ha un'azione anche serotoninergica. Quindi andate di rodiola, come si dice. Limiti, controindicazioni? Praticamente nessuna, e questa è utile anche nello sport, e farà sicuramente piacere agli ascoltatori sapere che per il meccanismo serotoninergico migliora questo ormone del buon umore, è utile persino anche per calmare la fame nervosa. Quindi dottor Confalonieri, vede che magari uno decide di stare un po' a dieta, perdere magari qualche peso, si arrabbia solo all'idea. Dottore, mi ritrovo completamente con quanto raccontato dal dottor Avoledo. E proprio su queste sostanze che riescono a interagire su questo delicato equilibrio neuroendocrino in cui si associano la stanchezza fisica e quella psicologica, e in effetti c'è una correlazione fortissima fra queste due cose. Mi era rimasta una curiosità. Abbiamo accennato a inizio trasmissione al fatto che la stanchezza porta a problematiche del sonno, e anche qui si crea poi un circolo vizioso, no? C'è qualcosa che può facilitare il sonno, sottolineando ancora una cosa che ha detto molto correttamente il dottor Avoledo, cioè attenzione che molti di questi prodotti di cui abbiamo parlato, se presi la sera, eccitano e rendono più difficile il sonno, quindi conviene privilegiare l'assunzione inizio giornata. Ma invece, per favorire il sonno, la natura ci aiuta o no? Assolutamente sì, a parte con alcune piante di carattere sedativo anche molto note come la valeriana, la passiflora, ma c'è un'altra erba adattogena anch'essa, forse la mia preferita, arriva in questo caso dalla Ayurveda, quindi dalla medicina tradizionale millenaria indiana, che è l'ashwagandha o ginseng indiano, anche se non è un ginseng nemmeno lui. Questo il nome scientifico, la dice lunga e non lascia spazio all'immaginazione, si chiama Witania somnifera, non è un vero sonnifero ma è un regolarizzatore proprio del ritmo ritmo sonno-veglia, si prende alla mattina, anche sì. Questo magari due capsule insieme, oltre ad essere un tonico generale del sistema nervoso, un antistress naturale, regolarizza il sonno e non ha quegli effetti tonici, per esempio del ginseng, che possono appunto disturbare il sonno, riposo. Ma lo regolarizzano. Fantastico, dottor Avoledo, grazie per essere stato con noi. Io ho preso appunti, ma vedo che anche il dottor Confalonieri non se n'è persa una. Grazie, ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi, arrivederci. Adesso spazio le vostre telefonate 800 24 00 24. Siamo in attesa dei vostri rimedi antistanchezza o anche segnalateci dove avvertite di più la stanchezza. E che cosa è la cosa che al solo pensiero vi rende stanchi? Mi state scrivendo al 349 238 6666. Giuseppe da Roma. Giuseppe, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Nulla. Herpes, stanchezza, stanchezza ed herpes, che stress. Dottor Confalonieri, stanchezza, herpes, stress. I nostri ascoltatori ormai ci guidano nella scaletta della trasmissione, sono proprio importanti i loro interventi, nel senso che non abbiamo parlato fino ad oggi del fatto che comunque la stanchezza psicofisica, ormai tendiamo a considerarci come un unicum di corpo e di psiche, comporta anche un calo delle difese immunitarie. E quindi ovviamente l'herpes è un virus che sta lì, tranquillo, riposa, non crea danni, ma è lì nel momento in cui cala la difesa immunitaria, lui Zacchete. Si accorge che qualcosa non va e ci aggredisce e compaiono queste manifestazioni dall'herpes labiale a quelle anche più importanti. Rimando ai nostri ascoltatori. Ecco, una segnalazione che vorrei fare sì. Invece di utilità è proprio rispetto ai bambini da questo punto di vista. Spesso d'estate li sovraccarichiamo ancora più che d'inverno tra campi sportivi, gite, oratori, attività in genere, e uno dei segnali proprio che loro ci mandano è la comparsa magari anche di un piccolissimo herpes labiale, significa che stiamo esagerando, il bambino ha bisogno di dormire, di annoiarsi e di stare un pochettino di più a casa. Ma la stanchezza potrebbe essere anche il segnale di una ghiandola molto importante per la nostra salute e il nostro benessere, che decide di lavorare in modo diverso, un pochino troppo, o di rallentare addirittura il passo. Ne parliamo con il professor Massimino D'Armiento, che è ordinario di endocrinologia all'Università La Sapienza di Roma e direttore del Centro Malattie della Tiroide del Policlinico Umberto I. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, ci impresta il suo occhio clinico e ci può descrivere la stanchezza che potrebbe farci sospettare un coinvolgimento della tiroide, questa magnifica ghiandolina dalla forma delicata, infatti ha una forma di farfalla, da cui dipendono molte dei nostri equilibri. Certo, la stanchezza sia fisica e mentale, di cui si è parlato nel corso di questa trasmissione, in effetti può essere uno dei sintomi di una malattia della tiroide, anzi della malattia della tiroide più frequente, che è l'ipotiroidismo. Quale ipotiroidismo colpisce, ahimè, di preferenza il gentil sesso rispetto agli uomini. È un intenditore, insomma. Esatto. Quando è che però possiamo sospettare che la stanchezza sia una spia dell'ipotiroidismo? Questa stanchezza deve presentare alcune caratteristiche. La principale è quella che deve essere diffusa per tutto l'arco della giornata e non essere presente soltanto in alcune ore. Inoltre deve essere accompagnata ad altri segni e sintomi, come per esempio un modesto aumento di peso, una ritenzione idrica diffusa che ovviamente mette in allarme le signore, una pelle secca, ruvida, che tende ad invecchiare precocemente, dei capelli crespi, fragili, che tendono a cadere facilmente. A volte inoltre questa stanchezza si accompagna a una modesta stitichezza e una cosa che molto rilevante, a un certo grado di anemia, la quale anemia ovviamente aggrava questo senso di stanchezza, perché certo. L'anemia non consente una diffusione di ossigeno a tutti i tessuti, e questa anemia in genere è dovuta nelle donne alle mestruazioni che sono più abbondanti in corso di ipotiroidismo. Quindi queste sono le caratteristiche che ci fanno sospettare che al di sotto di questa stanchezza ci sia una condizione di ipotiroidismo. In questi casi cosa si può fare, professore? Innanzitutto verificare se il sospetto è fondato, certo, con degli semplici esami del sangue. Con degli esami esami del sangue molto semplici, che sono il dosaggio degli ormoni tiroidei con la sigla che tutti conoscono, FT3 ed FT4, e anche quella del TSH, che è l'ormone che regola la tiroide. Vorrei però aggiungere che a queste semplici analisi vanno aggiunte altre, un'altra analisi molto semplice, che è quella del dosaggio degli anticorpi antitiroide, perché in genere l'ipotiroidismo, abbiamo detto una malattia così frequente, è causato proprio dalla presenza inappropriata di questi autoanticorpi che vanno, per così dire, a distruggere in modo progressivo e continuo la tiroide e a ridurne quindi il funzionamento. Se questa diagnosi è confermata, si deve iniziare un trattamento con ormoni tiroidei e con periodici controlli clinici, certo, e di laboratorio. Ma dobbiamo tranquillizzare le persone, perché in genere dopo pochi mesi, 2-3 mesi di trattamento, la funzione tiroidea si normalizza completamente. Professore, abbiamo proprio pochi minuti per descrivere invece una situazione opposta, l'ipertiroidismo, perché la stanchezza è particolarmente sentita anche da chi si trova a fare i conti con una tiroide che lavora troppo. Gli ipertiroidei infatti sentono in modo particolare il caldo e l'umidità di questi tempi. Un consiglio rapido per chi ci sta ascoltando ed è si trova descritto da questa situazione. Proprio così, perché la stanchezza dell'ipertiroideo è molto più marcata rispetto a quella di cui abbiamo parlato fino adesso, dell'ipotiroidismo. Questa stanchezza si accompagna a dei sintomi di una certa entità, come rilevanza, come un aumento della frequenza del ritmo cardiaco, a volte un affanno e del dimagramento. Ed il caldo, come sottolineava lei, è il vero nemico degli ipertiroidei, perché questi pazienti hanno un metabolismo così elevato, sì, e producono e dissipano calore in grande quantità. In effetti uno dei segni più tipici, sì, dell'ipotiroidismo è la profusa sudorazione che i pazienti presentano. Quindi, volendo scegliere una vacanza, l'ipertiroidismo, il soggetto ipertiroideo lo mandiamo al fresco? Proprio così, quindi in collina o in bassa montagna, in modo che sia agevolato da questo senso di calore. Da questa, certo, mentre per chi è ipo? Per chi è ipo invece bisogna andare in qualche località che risvegli la funzione tiroidea, e il mare è il posto ideale. Le nostre donne, come le nostre nonne, come lei ben sa, dicevano ai nipoti che respira lo iodio che ti fa bene. Ed è questo è proprio vero, perché lo iodio è il carburante, per così dire, della nostra tiroide. Perché questi ormoni tiroidei T3 e T4 sono gli unici ormoni che contengono iodio nella loro molecola. Allora, abbiamo proprio bisogno di un po' di vacanza. Professore, io la ringrazio, devo salutarla perché devo chiudere. Grazie al professor D'Armiento, a Franco Confalonieri, a voi che ci state seguendo, a Miriam Lucchetti in regia in redazione, a Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica.